Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Anche noi disabili. Volevo segnalare che nel comune dove abito io, Quarrata, vicino al posto riservato per i disabili, è stato messo un cartello con questa scritta: se vuoi il mio posto, prendi il mio handicap. Consiglierei magari di adottare lo stesso metodo anche per altre municipalità e magari di dotare di una piccola telecamera, perché sono molte le persone che non rispettano il posto riservato ai disabili. Grazie. Oggi è la puntata che dedichiamo al mondo dei disabili. Ricordo che Radio 24, questa iniziativa ormai da vari mesi, anche noi disabili, in cui tutti i giornalisti e la radio nei loro spazi, per quanto è possibile, seguono delle situazioni che coinvolgono la parte debole dell'umanità, quella che comunque ha bisogno di supporti, ha bisogno di protesi, ha bisogno di supplire quelle che sono alcune mancanze che la natura ha determinato nella loro vita. Questo non deve condannarli a una vita diversa, a una vita emarginata, a una vita in cui continuamente debbano chiedere qualcosa agli altri, quelli dotati a tutti gli effetti di tutte le loro facoltà sensoriali, di tutte le loro abilità. Ma proprio per questo ci siamo anche noi dichiarati disabili. Siamo tutti disabili, a tutti noi manca qualcosa, tutti noi abbiamo bisogno di una gruccia a cui appoggiarci, di vario tipo, può essere anche soltanto simbolica, può essere soltanto una persona che ti guarda e ti fa un sorriso e capisce che tu hai un problema, senza bisogno che tu glielo spieghi. Ricordo che abbiamo un numero verde 800 002400, 00. Lo ricordo, è un numero dedicato per questo tipo di nostro intervento, 800 002400 00. È una casella di posta elettronica, anche noi disabili, @radio24.it. Ripeto, anche noi disabili, @radio24.it. Non è la solita trasmissione di puro servizio fatta perché in fondo fa parte delle nostre missioni occuparci anche delle categorie deboli, no, lo facciamo perché ci crediamo. Facciamo perché ne siamo coinvolti, in particolare io ne sono coinvolto di persona. Non saprei dirvi se non avessi avuto un'esperienza nella mia vita personale, individuale, di disabilità, se avessi avuto lo stesso afflato, lo stesso desiderio. Non sono perfetto, non sono Superman, non sono Madre Teresa di Calcutta, però chiamatemi e se avete dei problemi cercherò per quanto possibile, con gli strumenti della mia professione, di aiutarvi, di far conoscere i vostri problemi a chi può magari risolverli. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Buongiorno Alfredo. Qual è il problema per cui oggi possiamo ascoltarla lei in questa rubrica Anche noi disabili? Così vediamo se riusciamo in qualche maniera a prendere parte, a partecipare al nostro, al suo problema e coinvolgere qualcuno che possa in qualche maniera prendersene carico una parte. Qual è il suo problema? Il mio problema è che sono quasi 2 anni che mia moglie praticamente costretta è murata in casa, nel senso che abbiamo grossi problemi a incominciare per uscire fuori all'esterno, a incominciare dall'uso dell'ascensore, perché è un ascensore di vecchia costruzione. Sua moglie ha avuto un problema recentemente? Diciamo, il 1 luglio del 2014 è insorto proprio questo problema, grosso problema neurologico, che l'ha costretta proprio prima a una specie di coma psichico per 6 mesi circa, è stata proprio completamente passiva, la dovevo imboccare. E ti parlava addirittura di mettere la PEG per l'alimentazione. Meno male sono riuscito anche lì combattendo a scongiurare questa cosa, però rimane il problema che ha perso completamente l'uso delle gambe. Ma a parte l'uso delle gambe ha riacquistato un po' la capacità, sì, di relazionarsi. La cosa positiva è che per fortuna ha riacquistato, invece, anzi, e anche i medici se ne sono meravigliati perché l'hanno chiamato quasi un miracolo, le capacità psiche. Quindi è una persona con cui ha una relazione, ha ritrovato grossa, sua moglie, sì, però il problema è che non si può muovere. Questo. Non si può muovere perché, ripeto, a cominciare dall'ascensore, per entrare nell'ascensore sono costretto io, con la carrozzina, che naturalmente è una carrozzina, è consona, diciamo, alle sue dimensioni corporee, sono costretto, siccome di quelle pieghevole, con un sistema di cinture, ecco, praticamente a ridurla per poter, con grande difficoltà, smontando le pedane davanti e girandola poi di peso quando siamo dentro la cabina dell'ascensore, è l'unica maniera per riuscire a poi... Quindi mi faccia capire, Alfredo, lei ha messo a punto una sua procedura casalinga inventata, sì, da lei per riuscire a permettere a sua moglie, sì, di uscire di casa. Sì, e anche quando vengano, per esempio, se viene anche, come è capitato, per andare a delle visite, c'è bisogno delle ambulanze o del doblò, quello attrezzato, comunque questa procedura l'ha fatta per scendere giù al piazzale, in cui hanno accesso, possono avere accesso all'ambulanza, però è l'unica maniera per poterla portare giù, altrimenti solo quando si parla di ricovero, come è successo anche 15 giorni fa, devono venire in quattro con il telo per portarla giù. Ecco. Quindi lei mi faccia capire, sua moglie ha delle esigenze di tipo terapeutico e avrà anche delle esigenze di tipo personale, vuole andarsi a fare una passeggiata ogni tanto. Mi sembra logico. Semplicemente volesse andare a fare una passeggiata e c'è questo grosso inghippo. Cioè non è scritto da nessuna parte, deve uscire di casa soltanto quando deve andare all'ospedale. Certamente, è quello che si vorrebbe, perché le persone vengono qui e dicono: ma come, non la porti fuori? No? Quanto ci mette ogni volta lei per mettere a punto con le cinghie, i trasporti, gli smontaggi, tutto questo sistema complicato? Poi ce la fa da solo? Sì, no, quello ce la posso fare e ti può arrivare giù, però quando ti arriva giù, naturalmente, siccome è sulla carrozzina, non si può riportare poi allo stato, diciamo, naturale, allo stato originale la carrozzina, quindi è compressa in questa carrozzina e quindi anche come stabilità... A lei la lascia dentro e diciamo, comprime la carrozzina senza fare in qualche maniera... Per poter entrare nella quindi nella, diciamo, anche è molto disagevole, è un disagio anche per lei, poi dovrà risalire in macchina, riscendere dalla macchina. No, un momento, la macchina, ecco, l'altro problema è la macchina, io non la posso far salire in macchina perché non ho una macchina attrezzata, ma finora questo problema non si è posto, anche semplicemente per portarla a piedi qui dei dintorni, ecco il secondo problema, cioè lo stato di manutenzione dei marciapiedi, anche il marciapiedi qui uscendo fuori da casa nostra, sia a destra che a sinistra. Lei sta in una città, stato... lei vive in una città, un paese. Vivo a Prato, una città di industria, è una città, voglio dire, all'avanguardia, è stata all'avanguardia. Però ci sono delle barriere, le prime barriere architettoniche sono nell'ascensore di casa sua. Esattamente. Passato con grande fatica, comincia ad andare per i marciapiedi di Prato e lì comincia un altro problema. No, il problema è che non posso assolutamente, perché è subito fuori di casa che si ha questa situazione. Come ho scritto il marciapiede disastrato, rovinato? Il marciapiede rovinato, rovinatissimo, pieno di buche, io ho fatto segnalazioni su segnalazioni, poi finalmente ho scritto direttamente all'assessore, alla mobilità, che ha assicurato che lui entro 2 o 3 mesi si dovrebbe arrivare alla soluzione. E abbiamo parlato solo del secondo problema. Sì, secondo. Poi c'è l'ultimo problema, il terzo problema. Io parlo, ecco, solamente l'uscita da casa. Sì. Gli altri problemi per me sono ancora da affrontare. Infatti noi per un attimo abbiamo messo in secondo piano il fatto che sua moglie abbia un problema grave, improvviso, che debba comunque gestire, debba comunque curarsi, comunque avere una sua vita di terapia, oppure una sua vita di relazioni, di uscita, per quanto possibile della dignità di andarsi a fare una passeggiata, che è logico. Ma lasciamo a parte questo, lei ha già dei problemi soltanto per dire esco di casa. Il terzo problema per uscire di casa. Il terzo problema, che mi sembra quello, infatti, su cui ho fatto anche il commentino finale nelle mail, è che quotidianamente, uscendo a sinistra dal nostro palazzo, e accanto, proprio adiacente al nostro condominio, c'è una carrozzeria e un'autofficina che da 40 anni hanno fatto proprio tutto lo spazio del marciapiede. Sono, però abusivamente, non è uno spazio loro, non è uno spazio loro. Appunto, ma loro lo considerano e continuano a considerarlo, cioè nonostante... Un'occupazione abusiva del suolo, certo, pubblico. Ma poi sfacciata. Tollerata, però tollerata. Continuo a fare segnalazione ai vigili, dice sì, provvediamo, mandiamo una pattuglia, arriva la pattuglia, gli fanno spostare i mezzi, appena la pattuglia è arrivata in fondo alla strada, prendono e rimettono i mezzi tranquillamente. E questa è una cosa, è intollerabile. Di tutte le cose, di tutti i tre problemi, a me mi sembra quello più intollerabile, perché qui si deve lottare veramente contro il cervello delle persone. Ecco, mi faccia capire i vari passaggi. se mi permette, lei adesso ha parlato con i vigili, lei dice, ricominciamo dal primo problema. Lei ha posto il problema al condominio, ai vicini? Sì, no, ma questo è in soluzione. E loro hanno detto che mettono l'ascensore, come si chiama? Deve cambiare l'ascensore. È stato approvato nell'ultima riunione condominiale del 16 di febbraio, è stato approvato praticamente che si deve sostituire l'ascensore con un ascensore di quelli a norma, con le portiere scorrevoli, eccetera, eccetera. Però anche qui, nonostante questo, è nato un problema. Io ieri ho avuto qui a casa mia, sono venuti, mandati dall'amministratore, sono venuti i tecnici più giusto della ditta che deve fare la sostituzione, sì, perché mi avevano dato un disegno di come dovrebbe essere. Ma secondo me, insomma, si è risolto, ma parzialmente. Non c'entra lo stesso la carrozzina? Son costretti a farla stretta, per cui la carrozzina si entra questa volta, c'entra, ma non però c'entra la magari mole. Non c'entro io, ecco. Ma lei sta al primo piano, ha detto? Al primo piano, sì. Ma non fanno prima mettere quelle cose lungo le scale, non so come si chiamano, i montacarichi, Il nostro condominio è un condominio un po' strano di quelli fatti. Perché molti palazzi mettono questa cosa attrezzata, dove c'è un seggiolino attrezzato elettrico che porta su. Però scendendo dal nostro appartamento c'è una rampa, sono due rampe di scale per scendere al piano terra. Poi dal piano terra per accedere alla strada c'è un'altra rampa di scale. Qui sono tre rampe da fare. Sì, sono tre rampe con poi un passaggio. Conviene lavorare sull'ascensore. Tanto sull'ascensore perché porta direttamente al sottosuolo, dal sottosuolo si accede al piazzale dei garage condominiali e da lì con una salitina poi siamo... Sì, ma lei non può pretendere che almeno diciamo questa opera, siccome la fa il condominio, sia consona alle sue esigenze? Ma infatti ieri, ripeto, ho parlato con questi due tecnici e sono riusciti finalmente a capire, perché hanno visto di persona la carrozzina, abbiamo fatto le prove, le simulazioni, tutte queste cose, però mi hanno detto che sarà molto difficile riuscire a risolvere, a capire qualche altro centimetro, perché non c'è un problema di base, che è la buca, diciamo, non c'è più di tanto, non c'entra, è quella che è, ecco. Vabbè, diciamo che intanto si stanno impegnando, hanno messo sì, disponibilità, no, per questo sì, ecco, per questo secondo problema sui marciapiedi. Deve pensarci il comune. Lo so. È il comune di Prato. Che via è la sua? Tanto per così sentono il comune di Prato. Che via è? Quale marciapiede è esattamente? È via Rubieri. Via Rubieri. Ermolao Rubieri. Vabbè, intanto il comune di Prato potrebbe cominciare a mettere a posto questo marciapiede. Non credo sia una cosa. Ultimo problema. Il carrozziere. Lei ha mai parlato col carrozziere? Io non ci voglio assolutamente parlare. Ah, ecco. Siete a coltelli, siete. No, ma no, non perché ci sia stato qualche altro. Ma non me la sento di parlare con Però possiamo dirlo, visto che questa è una radio nazionale. Comune di Prato, a parte che il marciapiede via Rubieri va messo a posto, perché non soltanto per la carrozzina della signora moglie di Alfredo, che ha già tanti problemi, se potreste risolvergli anche questo e non vi costerebbe nulla, sarebbe un bel segnale, ma verremo a vedere questa strada e verremo a capire perché non viene fatto. Seconda cosa, se veramente questo carrozziere ha un deposito non autorizzato di auto in demolizione, trovate la maniera che venga tolto, sia per la sicurezza della signora moglie di Alfredo, ma anche per la sicurezza degli altri cittadini. Di tutti, perché se è un'occupazione abusiva del suolo pubblico e se i vigili fanno finta di niente, vorremmo capire perché i vigili, di fronte a un illecito palese e una denuncia palese di illecito, fanno finta di nulla. Vediamo se il comune di Prato, che ci ascolterà sicuramente, poi faremo in modo che gli sia recapitata questo tipo di trasmissione, darà una risposta ad Alfredo. A presto, Alfredo. Grazie Nicoletta. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Allora, abbiamo appena sentito la storia di Alfredo, una storia ai limiti del paradosso, già una situazione che quando capita è come una cannonata in faccia. Una moglie con un problema gravissimo, improvviso, esce fuori da una situazione molto critica, anche di coma, però rimane senza l'uso delle gambe. Iniziano i problemi da parte del marito di gestire la moglie. Il primo problema è l'ascensore del condominio che non entra con la carrozzina della moglie. Il secondo problema è il marciapiede della città di Prato, che spero in questo momento ci sia ad ascoltare qualcuno dell'amministrazione di Prato, che poi noi cercheremo e solleciteremo. C'è un marciapiede da 20 anni che rende impossibile a una carrozzina con un disabile l'attraversamento e il passaggio. terzo problema, c'è un carrozziere abusivo che lascia i rottami delle sue macchine parcheggiate proprio davanti casa del nostro amico Alfredo. Ogni volta che vengono i vigili li sposta, poi li rimette lì. Per lui è più importante il rottame dell'automobile, i pezzi dell'officina, che la serenità di una persona che già ha tanta difficoltà ad essere serena. Andiamo avanti. Renato, buongiorno. Buongiorno. Sentiamo lei, Renato, cosa c'ha da raccontarci su questa una mattina di amenità. Vediamo di aggiungere anche le sue a quelle che abbiamo già enunciato. Che mi rendo conto, lei mi darà ragione, che alla fine non sono problemi irrisolvibili, sono problemi che basterebbe che le cose andassero nella maniera corretta, reale, istituzionalmente accettabile, ce ne sarebbero meno di problemi. Il suo caso, invece, cosa riguarda? Ma i miei casi riguardano molti aspetti, nel senso un po' riguardano un po' di civiltà del popolo italiano, un po' riguardano le pubbliche amministrazioni, dove avendo due figli disabili ho rifatto un rinnovo presso la ASL di competenza della EC del bambino, sempre presso lo stesso dottore. Il dottore mi ha detto che mi deve portare una copia. Gli ho fatto: scusi dottore, ma è la copia che lei ha firmato. Cioè, sì, ma lei mi deve portare una copia. Ma a parte che la legge prevede che il momento in cui una scuola chiede un atto pubblico di un'altra amministrazione, io non dovrei nemmeno fare i giri. Lei adesso mi sta chiedendo, lo stesso dottore che mi ha firmato il primo, io rinnovo, me lo chiede sempre lei, scusi, sarebbe vedere l'archivio. Finché dice, ma lei si deve stare calmo. No, io mi sto calmo tranquillamente, ma si mette nelle condizioni di un bambino che non ha un padre che può fare i giri, ma di una persona disabile che deve muoversi perché un dottore o un suo collaboratore non cerca la pratica di rinnovo all'interno. Andiamo al punto, cerchiamo di far capire bene il problema. Lei ha due bambini, due ragazzi, di che età hanno i suoi ragazzi? I bambini hanno 10 anni e 5 anni. Sono tutti e due con dei problemi? Tutti e due sono disabili, tutti e due stanno sulla sedia a rotelle. Lei chiede il rinnovo dell'EC, cioè dell'assistente comunale, che diciamo è il supporto al sostegno a scuola? Esatto. In questo esatto. Caso è la persona che si occupa anche delle cose, diciamo, materiali, di spostare il suo figlio, se ha dei bisogni, di accompagnarlo. E questo certo. È il suo compito. Senza l'EC suo figlio non può nemmeno stare a scuola, perché nessuno lo aiuta nelle sue cose personali. Ma per fortuna questo l'EC per il momento ce l'hanno. Poi no, dicevo, se non ce l'avessero, per loro la condizio sine qua non è poter stare a scuola. Certo, quando poi invece è previsto dagli obblighi di legge che comunque ci devono andare. E finora l'ha avuto l'EC, sì? Finora sì, ce l'ho avuta l'EC, anche se è stata temporaneamente per problemi dovuti poi a dei rinnovi, diciamo, chiamiamoli così, circoscrizionali in tutto il territorio di Roma. È stato sospeso per un giorno l'AEC, ovviamente abbiamo fatto subito la manifestazione, siamo al 10° municipio, ci sono 350 disabili, dove improvvisamente, forse per un rinnovo della gara d'appalto, io questo non lo so, ma l'AEC sono state torte di punto in bianco. A 350 persone? 350 persone, perché i disabili nel 10° municipio sono 350, da quello che so io. E quanto è durato questo, diciamo, questo fortunatamente vuoto. Abbiamo chiamato anche le Iene, che hanno fatto un servizio, e poi è stato tutto ripristinato il giorno dopo, con la promessa che sarebbe durata fino a giugno. Certo, poi a settembre non lo so. È triste, con tutta la simpatia per i colleghi delle Iene, che certo, i cittadini certo, devono ricorrere alle Iene ogni volta che hanno un diritto che viene in qualche maniera violato. Sì, quindi, ma io posso anche immaginare che magari ci fosse stata qualche cosa non corretta nella gara d'appalto, però al momento in cui una persona o un commissario, quel che sia, deve fermare una cosa, si deve rendere conto che io non me la prendo con lui, ma chissà con i suoi collaboratori, attenzione, che se noi andiamo a fermare questa cosa, che può essere lecito o meno, io questo non mi interessa, ma noi andiamo a bloccare 350 famiglie, diciamolo almeno il giorno prima, perché dalla notte al bianco una persona che si trova il bambino a casa, che ha un problema di lavoro, che sta magari lavora dall'altra parte della città, il datore di lavoro non gli dà la possibilità perché magari lavora una catena di montaggio. Cioè, queste sono cose che è un discorso. Quindi che lei si è trovata di punto in bianco una mattina con i due figli, che non poteva portarli a scuola per questo problema. Esatto, a me sono concesso che il mio datore. Ora, per fortuna mia moglie non lavora, ma è una sua fortuna, è una fortuna dei bambini. Ci sono persone che io vedo ma non conosco nel centro di riabilitazione dove i miei figli li porto, che mi rendo conto che affrontano dei problemi non indifferenti. Cioè, quando i miei figli arrivano dopo 18 anni, come è capitato a suo figlio, che non l'hanno più riconosciuto, è un paradosso. Cioè, io se fossi lì l'avrei portato al distretto militare, adesso prendetelo a fare il servizio militare. Così vi rendete conto. Ah, buona idea. primo. Peccato che non c'è più il servizio militare. Esatto, se fosse stato, adesso voi siete bravi, Mariano, a togliere i famosi 3 giorni, prendetevelo, perché a questo Vabbè, punto... toccherà anche a lei, perché anche lei poi le chiederanno i certificati, perché alla fine, per quanto mi hanno detto a me, no, non è vero, la legge non lo prescrive più, ho dovuto fare tutti i certificati, rifare il certificato dello psichiatra che mi diceva che mio figlio è autistico, nonostante che sia ormai uno degli autistici più conosciuti, penso, nel nostro paese, anche perché l'ho abbastanza esposto, ma forse è valsa la pena. Beh, torniamo ai suoi figli in questo momento, sono quelli che mi stanno più a cuore. Allora, lei deve rifare una documentazione. Perché deve rifare una documentazione? Perché la EC viene fatto anno per anno e perché, specialmente il più grande, passa dalle scuole elementari alle scuole medie, quando comunque la rivedibilità della sua malattia ce l'ha nel 2019. Io questo non lo penso che in un'amministrazione normale non lo dovrebbe fare nemmeno. Del 2019, fino al 2019 in teoria lui è coperto da una certificazione che ne attesta lo stato di portatore d'handicap. Esatto, la rivedibilità al 2019, quest'altro anno al 2016, anno scolastico. Quindi ancora c'ha 3 anni che non deve nessuno chiedergli nulla in teoria. Esatto. E non basta quel certificato? No, gli va fatto come se per la scuola o per la circoscrizione o per chi non so cosa, come è capitata una malattia, ci fosse un fulmine che lo fa guarire. Per la scuola, però per l'INPS fino al 2019. Se lei riproduce il documento dell'INPS, l'INPS per la 104 ha prodotto un documento, una diagnosi, no? Certo, sì. Quello, io ne ho 100 fotocopie di quel documento finora. Io pure, io ormai giro con le fotocopie. Sì, giriamo per qualunque cosa con le fotocopie del documento, che ti chiedono qualcosa. Ecco, non basta portargli una fotocopia della 104 alla scuola? No, quella ormai ce l'hanno di default. E allora chi le ha chiesto un nuovo? Probabilmente loro lo fanno per un discorso di organizzazione scolastica che richiedono il rinnovo dell'IC. Che la scuola, io mi posso anche mettere nei panni della preside, che magari il ragazzo decide e possono non saperlo la scuola. Quindi fa il contratto dell'IC anno per anno perché possono mettere in preventivo il fatto che il bambino quest'altro anno per qualsiasi motivo magari si trova male nella classe, quindi lo spostano, quindi non fanno un contratto di 3 anni per quel bambino con l'IC. Sì, per un momento in cui il bambino rimane presso lo stesso plesso scolastico, io penso che nel 2015 la direzione scolastica chiama la circoscrizione, anche perché il foglio metà della circoscrizione dell'ASL, l'ASL dice guarda sì, ecco la 104, io ho la 104 perché ho lasciato l'altro anno, è scadere il 2019, rimane al vostro presso scolastico, ok fatelo pure per il 2015-2016. Così mi sembra che sia la procedura in effetti. Esatto, no che la scuola mi dà un foglio, io vado alla circoscrizione al TSMR, il TSMR mi dice mi porti la fotocopia della 104 col foglio della C dell'altro anno, ma dottore ma ha fatto lei, è lei che me lo chiede. Cioè non è che io sto andando dall'altra parte di Roma e quindi... potrebbero non averlo, ammesso e non concesso che nell'informatizzazione della pubblica amministrazione certe cartelle si dovrebbero parlare. Poi finisce così, mi corregga Renato, alla fine per disperazione uno dice sempre sì, anche se se ne accorge che è una burocrazia assurda, è una sorta di situazione kafkiana da quale alla fine uno preso per spostamento dice sì, ditemi cosa devo fare, rifà sempre lo stesso inutile giro. Sì, no, io personalmente adesso mi comincio a mettere di traverso, cioè ma un po' per cultura personale, perché se non sono io che comincio a fare qualche lotta, i miei figli si troveranno sempre peggio, quindi se sono io che mi devo arrabbiare, devo alzare la voce per fare i diritti di mio figlio, finché ce la faccio perché ho 46 anni, e andrò avanti per questa strada, perché sennò quando loro avranno 20 anni... Ma lo sa cosa mi dicono a me alcune voci maligne, ma proprio maligne, senza base... Mi hanno detto a me quando tu rifare tutta la commissione per i 18 anni, mi hanno detto guarda che lo fanno perché ogni volta si riuniscono queste commissioni, pigliano un bel gettone ogni persona che fa parte della commissione, quindi non rinunceranno mai a riunire una commissione in più, a fare una certificazione in più. Non le viene questo sospetto, che è un sospetto veramente vigliacco? Ma ormai il sospetto a me viene dappertutto, perché ormai guardando la televisione purtroppo se ne sentono di cotte e di colore con le commissioni da qualunque parte. Ma proprio a monte, cioè quando il bambino ha una, un qualsiasi persona disabile ha una 104, che ormai sono quasi tutte rivedibili, ha una rivedibilità a 5 anni, tutta la documentazione del bambino lo deve seguire come una piccola cartella clinica all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Ma secondo me equivale, e poi ci lasciamo perché ci siamo fatti una bella chiacchierata ma rimaniamo sempre al punto di partenza, abbiamo parlato... serve soltanto per far capire chi ci ascolta che le difficoltà nella gestione di una persona disabile vanno ben oltre quello che certo. In superficie si vede, ci poverini, quelli hanno questa croce. No, guardate che dietro ci sono un'infinità di operazioni che nemmeno vi immaginate. Ecco, dovrebbe essere, secondo me, come la patente di guida. La patente di guida c'ha una data esatto. di scadenza. Io fino al giorno prima che mi scade la patente, non devo, nessuno mi deve chiedere di riprodurre i documenti che ho preso la patente, c'ho la patente in mano. Dovrebbe essere la 104, con una, anche una data di rivedibilità, poi da un certo punto in poi non è più rivedibile, almeno finché è rivedibile, dire fino a quella data lì, per favore, lasciatemi vivere tranquillamente, ho già tanti problemi, poi questo problema lo affronterò, in questo caso, nel 2019. Grazie Renato, alla prossima. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Io non ho l'esatta percezione se quello che vi sto facendo ascoltare sia per voi particolarmente noioso, direte, ma noi che ce ne importa. Però vi assicuro che Fabrizio Intonti, che ascolta dall'altra parte del vetro e che è una persona molto informata, intelligente, acuto, si informa, casca dalle nuvole perché dice: ma sai, sembra impossibile che dietro un problema che è già un problema grosso, di cui la percezione sia soltanto superficiale, poi esista questa sorta di piccolo inferno della burocrazia, che vi assicuro che è il peggiore. Uno sulla disabilità a un certo punto ci fa i conti, ci fa pace, sa che quello è un problema che dovrà gestire. Su queste cose irrazionali però non si riesce comunque a darsene conto. Uno non si rende conto perché deve essere tutto così estremamente difficile, anche quello che potrebbe essere semplicissimo. Vediamo se riesce questa mattina a tirarci un po' su un giovane ascoltatore di nome Fabio Lotti. Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vediamo se Fabio mi ridai un po' di allegria questa mattina. Chiedo a te, è una bella scommessa. Qual è il problema per cui ci chiami? Problema o per il motivo, la ragione? Ma sostanzialmente io sono cieco dalla nascita praticamente, e anche se in infanzia vedevo un ventesimo, quindi qualcosina sono riuscito a vedere. Poi, eri ipovedente per un certo periodo, poi dopo non hai visto più niente. Esatto, si è aggravata la malattia, tale per cui poi ho perso qualsiasi sorta di residuo visivo fino all'università, che diciamo lì ho perso completamente qualsiasi sorta di residuo visivo. Però continui a studiare. Ho finito per fortuna, mi sono laureato a dicembre del 2012 nei 5 anni di economia a Verona, all'Università di Verona, e ho finito, poi ho continuato con dei corsi di aggiornamento, con dei master per mantenere, diciamo... Cosa hai lavorato in economia, mi pare? Sì. Quindi a tutti gli effetti tu sei una giovane promessa nel campo dell'economia, una disponibilità per il mercato del lavoro di una persona non soltanto laureata ma anche formata attraverso diciamo, dei master. E adesso a questo punto qual è il tuo problema? Il mio problema è proprio questo, cioè che pensavo che potesse bastare una formazione, anche perché per laurearsi bisogna imparare a gestire la propria autonomia, quindi a digitalizzare i libri, sostenere degli esami. Pensavo potesse bastare per sfuggire a quello che pare essere il destino inesorabile di una persona che non vede, ovvero fare il centralinista. Cioè tu dici ho studiato tanto, se fosse possibile ambire a qualcosa, con tutto il rispetto per i centralinisti, ma ho studiato tanto, infatti, potrò fare anche qualcos'altro, forse, magari, non lo so. Esattamente, infatti io non ho nessun tipo di pregiudizio verso il lavoro del centralinista. No, ma io da ragazzo davo la benzina alle pompe, quindi non è che mi accontentavo, ma andava bene, speravo sempre di fare qualcos'altro però. Te potrai anche fare il centralinista per un periodo della tua vita, ma vuoi ambire a qualcos'altro. E qual è il problema? È un problema per tutta l'umanità, che ci veda o non ci veda, però nel tuo specifico c'è un problema in più. Sì, che molto probabilmente questa caratteristica dell'essere non vedente comporta per chi deve scegliere di fare i colloqui un ostacolo insormontabile, perché purtroppo, a mio avviso e non solo secondo la mia opinione, non si conosce cosa una persona cieca riesce a fare attraverso le tecnologie assistive, che sono appunto il computer con le sintesi vocali piuttosto che i display braille, eccetera. Quindi tu avverti una sorta di pregiudizio che magari nessuno ti ha mai detto palesemente, ma quando vai di fronte a una commissione che dovrebbe esaminarti per un possibile posto di lavoro, ti vedono più come una persona a cui manca qualcosa piuttosto che una persona che ha delle abilità, dei talenti, ha studiato, ha dei punti. Non riesci a fargli dimenticare che tu sei cieco, ecco, diciamola in maniera brutale. Sì, mettiamola così, anche perché appunto, ti ripeto, avevo la convinzione che con il curriculum formativo che mi sono costruito in questi anni di scuola potessi dimostrare, invece non ho nemmeno avuto la possibilità di dimostrare a qualche imprenditore o qualche responsabile delle risorse umane le mie capacità. Ma scusa, ma cosa dovresti dimostrare te? Tu immagini che fai un lavoro di concetto, un lavoro che fai con la testa, scrivendo, pensando e ragionando su quello che hai studiato. Non è che devi fare un lavoro, non è che stai al tornio che dice è importante, è indispensabile avere la vista, se no non lo puoi fare questo lavoro. Tu puoi fare il lavoro, può fare chiunque. Sì. Anche nelle tue condizioni, sì. Cioè non manca assolutamente nulla, capito? No, anche perché appunto come ti dicevo con il computer, le sintesi vocali, la possibilità di navigare in internet, comunque ci sono gli strumenti al giorno d'oggi per fortuna, quindi una volta che uno si dota di questi strumenti può, non dico lottare alla pari perché... Sì, ripetiamo, guarda, non so se hai sentito la nostra trasmissione di qualche settimana fa in cui venne una mia cara amica... Anche lei cieca dalla nascita, che ha sposato un signore cieco, un amico mio, anzi, hanno fatto una bambina, hanno una vita totalmente, radicalmente normale. Spieghiamogli che una persona che non vede questo tipo di lavoro lo può fare tranquillamente, senza nessun problema. Non vi accorgete nemmeno della differenza, onestamente, perché quando è davanti a un computer, ha un telefono in mano, fa esattamente le stesse cose. E questo perché è così difficile farlo capire? Perché c'è questo grosso pregiudizio culturale oppure ignoranza culturale, tale per cui chi poi deve andare a capire quali sono le risorse a disposizione presume che non sono delle risorse ma sono piuttosto un peso, cioè ho paura di sobbarcarmi un ulteriore problema per la mia azienda, per la mia istituzione. Che poi non sarebbe un problema, sarebbe un vantaggio per l'azienda, perché avrebbero anche diciamo delle condizioni agevolate se prendessero un lavoratore che fa parte di queste liste. Senti, tu ce l'hai però una proposta alternativa, perché non credo sei stato con le mani in mano a aspettare che... Esattamente, piuttosto che ho sempre pensato che starsene con le mani in mano aspettare che piova giù dal cielo qualcosa non fosse la soluzione ideale. E cosa avresti da proporre? Se adesso avessi un minuto per lanciare una proposta, cosa vorresti proporre? La proposta è stata realizzata in realtà. Io e un amico collega di Verona, appunto Marco Andreoli, come ipovedente come me, abbiamo detto proviamo a rendere un più quello che solitamente è un meno, quindi mettiamo a disposizione di altre persone con disabilità la nostra capacità che abbiamo in questi anni riusciti per risolvere i problemi, e quindi abbiamo creato questa cooperativa sociale dal nome Progetto IEA, di cui casomai se sei interessato ti do le estremità. Io intanto vedo che c'è un sito www.progettoiea, scritto come IEA con l'Y e l'H finale, .it, www.progettoiea.it. Cosa fate voi? Così vediamo se qualcuno raccoglie. Sostanzialmente facciamo dei corsi di formazione o delle consulenze per persone con disabilità visiva, quindi mettiamo a disposizione le nostre capacità, ma in realtà siamo un gruppo di ragazzi che hanno la disabilità visiva e una preparazione adeguata per andare a insegnare come utilizzare le tecnologie per poter acquisire maggiori autonomie nella propria vita. E di contro invece andiamo a lavorare nella società creando dei servizi che migliorino l'accessibilità, quindi cerchiamo di creare un punto di incontro, no? Quindi le persone che hanno una disabilità devono dotarsi di tutti quegli strumenti che ci sono a disposizione per migliorare la propria autonomia, mentre la società deve dotarsi di tutti quegli strumenti per essere una società accogliente e non esclusiva. Quindi al di là delle chiacchiere e del piangersi addosso, Fabio Lotti, nostro ascoltatore, ragazzo che non vede ma laureato, masterizzato e via dicendo, stanco di essere considerato come un povero cieco che non riesce nemmeno a risolvere i propri problemi quotidiani da delle commissioni che dovevano esaminare la sua capacità reale di lavorare, si è messo assieme a un suo collega, ha fatto una startup e tramite l'incubatore di impresa è riuscito a fare questa sua iniziativa. Si chiama progettoyea.it, di cui potete chiederci informazioni se qualcuno è interessato in qualche maniera aiutarli o perlomeno a diventarne partner o avere qualche informazione in più, che ha trasformato in un'attività professionale quello che era il loro limite. Per tutte le persone che hanno un problema di disabilità e vogliono acquisire strumenti che riescono in qualche maniera a compensare questo loro problema, permettere loro di essere competitivi nel mondo del lavoro, loro sono a disposizione. Vediamo se è servito qualcosa a parlarne anche per noi. Grazie Fabio, alla prossima. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.